Con quel pub sì, assolutamente lì. E non ce l'ho io, ce l'ha un po' il gruppo di amici con cui usciamo la sera, nel senso che noi siamo andati in quel pub la prima volta, ancora al liceo, terza o quarta liceo, mi ricordo ancora prima di WhatsApp, quando ancora i gruppi di amici si sentivano via Facebook. E lì una sera uno dei nostri amici disse: ho trovato questo nuovo locale aperto appena fuori sui Navigli. Si chiama Teen Whistle, sembra carino, vi va? E da lì abbiamo cominciato a frequentarlo sempre più spesso, poi non tutti, perché all'inizio uscivamo in 10 persone, metti, poi piano piano i giri un po' comunque si restringono, però io da quel momento ho cominciato ad andarci sempre più spesso, mi è capitato di andarci anche da solo a volte, tranquillamente, perché comunque poi lì fai amicizia. Sia con Riccardo, che è il ragazzo che lavora lì, ha aperto nell'89, tra l'altro, abbastanza vecchio, sia con anche lì i frequentatori abituali del posto, per cui anche andare lì da solo non è assolutamente un problema, perché ti fai una birra, fai due chiacchiere, spari due cagate con quelli che sono lì, e quindi io ho amici di Milano e amici di Bucinasco, per cui il gruppo. Io sono nato a Milano, ho vissuto a Milano. Però avevo compagni di classe che arrivavano da Buccinasco, quindi il giro di amici che si è costituito era metà di Milano e metà di Buccinasco. E quello in effetti è un buon punto, perché a 10 minuti da casa mia, io abito a sud-ovest di Milano, zona Piazza Napoli, sia a 10 minuti in motorino da Buccinasco. Quindi super comodo. Piccolo, anche lì, posto piccolo, è un posto che a me piace perché è molto più semplice costruire così una realtà in cui conosci anche persone che non sono già tue amiche prima. Nel senso che lì ci lavora il proprietario e una ragazza, o un ragazzo, dipende, a seconda dei periodi, però comunque sono in due a lavorare dentro il pub. Il pub avrà 10 tavoli, per cui è una realtà molto piccola, ma carina. Però diciamo che Caffè Baglio comunque sta mettendo a dura prova la mia volontà di avere quello là come bar preferito. Io credo che di fondo generalmente faccio una considerazione generale del tutto priva di qualsiasi tipo di fondamento, però credo che in realtà di fondo ci sia una forte componente relazionale. Il bere, secondo me, tendenzialmente viene dopo. Sulla mia pelle è così, nel senso. Lì fanno la Guinness e la fanno bene, quindi a me piace molto la Guinness fra le birre, quindi bevo la Guinness volentieri. Capita che esca dicendo ho voglia di farmi una Guinness. Però fondamentalmente la componente più forte secondo me è quella relazionale, cioè esco perché ho voglia di fare due chiacchiere. Non mi è mai capitato di dire voglio uscire perché ho voglia di bere, ecco. Quella cosa lì di ho voglia di ubriacarmi, ho voglia di bere. Non ce l'ho, non sono un bevitore. Sei un bevitore? No. Non reggo neanche troppo l'alcol, cioè dopo due birre sono già non ubriaco, però che va bene così. Stavo dicendo, ah sì, mezzi pubblici o taxi o passaggi da gente che dice sì, ti porto io. Mi ricordo una volta dalla Bitola, piccola ridente cittadina in Macedonia, abbiamo trovato un passaggio da un ragazzo che ha detto sì, ho una macchina a disposizione. Siamo andati in Grecia, da lì passando il confine in macchina, tra l'altro proprio alla brutta, nel senso che lui appena prima di passare il confine ci ha detto ci fermeranno, ci faranno una serie di domande. Voi siete miei amici, noi stiamo andando in questo paesino che c'è la spiaggia a fare il bagno. E così abbiamo passato il confine e siamo arrivati a Salonicco. Cioè, lui ci ha portato appena passato il confine, poi da lì abbiamo preso un altro, non mi ricordo se autobus o taxi, per arrivare a Salonicco. perché lì comunque, almeno rispetto a qui, la vita costa molto meno, quindi comunque un passaggio in macchina da un privato cittadino è una cosa che ti puoi tranquillamente permettere. Ci siamo stati per poco tempo, vedere due stati in poco più di una settimana secondo me è poco, nel senso, io sono per un viaggiare molto più calmo, cioè piuttosto vedo un posto, però quel posto lì lo cerco di conoscerlo bene, cioè cerco di immergermi un po' per quanto possibile, nel senso che se fai tutto in fretta poi sei una pallina che rimbalza da qui a là senza però in realtà vedere nulla. In più sono comunque stati diversi da noi, poco familiari, nel senso che se tu a un italiano dici Germania, stereotipo no, però abbiamo tutti in mente qualcosa. Se dici Francia abbiamo tutti in mente qualcosa. Se dici Lettonia o Lituania, nessuno ti saprebbe dire nulla, cioè qual è il piatto tipico, se ci sono dei giocatori di calcio che vengono da lì, qualsiasi cosa. Chi è il presidente? Esatto, si sa che la Lituania è forte a basket, però finisce lì. Quindi questo comunque secondo me ha giocato una parte importante. Complessivamente, però non, so che non è un'impressione solo mia, perché ne abbiamo parlato un po' alla fine del viaggio, eravamo in quattro e tutti quanti eravamo d'accordo nel dire boh, non ho capito granché di questi posti, non mi sto portando a casa grandi cose. Sì, io secondo me sì, lo cerco abbastanza, nel senso, io quello che cerco è di non sentire che sono in viaggio quando sono in viaggio. Che non è però il replicare la routine di quello che fai, è il provare in qualche modo comunque a fare finta di essere anche tu un cittadino di quella città lì. Cioè vado in un paese nuovo, in un posto nuovo, cos'è che fanno quelli che vivono lì? Provo a farlo, dov'è che vanno quelli che vivono lì? Vado anch'io lì. Per esempio adesso mi era venuto in mente quando ero in India, a Benares, città sacra, famosissima, tappa diciamo obbligata per chiunque voglia andare in India e vedere un po' di India vera, diciamo così, tutta la parte che anche i turisti poi vanno a vedere è legata a preghiere, grandissima spiritualità, cittadini che si alzano alle 6 del mattino per andare a fare le abluzioni nel Gange, nella Ganga, tra l'altro il fiume lo chiamano al femminile, non al maschile, e eccetera eccetera. Dopodiché se esci dal centro, a me è capitato, non mi ricordo per quale motivo, una volta sono capitato in un disco bar normalissimo, familiarissimo per me che vengo da Milano, in cui c'era tutta un'altra fetta di popolazione di indiani, non lo so se più ricchi o meno, comunque se più businessman diciamo, che erano lì a bersi i cocktail e le birre. E nel centro di Benares in realtà bere alcol non si fa, città sacra, non si beve, non si mangia carne, eccetera eccetera. Per cui volendo poi in realtà le cose a cui tu sei abituato le ritrovi un po' ovunque. Oggi, perché comunque oggi ormai siamo in un mondo che è globalizzato fino all'ennesima potenza, quindi forse non esiste più sulla faccia della terra uno stato completamente autentico e quindi completamente lontano da quello che tu conosci. Però anche quello fa parte del gioco, perché se probabilmente non avessi visto quella parte lì avrei pensato che tutta Benares è fatta di gente che vanno a fare le abluzioni nel Gange alla mattina. E in realtà non è vero, perché c'è anche gente che vive col cellulare, va in ufficio e lavora in banca. Bene o male, non è quello il punto, però fa parte del conoscere meglio un posto, secondo me. per adesso bene, nel senso che io ero arrivato a un, sono arrivato a un punto in cui mi sono accorto che da un lato volevo cominciare a vivere da solo come primo motore, secondo mi ero un po' stufato di Milano, nel senso che cominciavo ad accorgermi che era una città che non mi dava più nessun tipo di stimolo, nessun tipo di così di energia positiva che mi desse qualche cosa, e ho trovato invece attrazione in Genova, capitandoci più o meno per caso, nel senso che ci siamo trovati con alcuni amici a suonare un po' di canzoni di De André a Genova l'anno scorso, qualche giorno dopo Natale dell'anno scorso, e lì il giorno successivo abbiamo fatto, organizzato una cantata collettiva di quelle non, non mainstream, non autorizzate, in una piazza nella Genova, nella città vecchia cosiddetta. Il giorno dopo, passeggiando per i vicoli della città, ho detto: a me questa città mi sta dicendo qualcosa, mi sta parlando in qualche modo, voglio vivere qui. Allora ho fatto di tutto per trovarmi un senso e una ragione per andare lì a vivere. E l'ho trovata iniziando a lavorare, facendo un'esperienza di work away, che vuol dire lavorare in cambio di vitto e alloggio, in un ostello nel centro storico di Genova. E ho cominciato a vivere lì a gennaio dell'anno scorso. Poi, vabbè, è arrivato il virus e quindi la quarantena l'ho fatta qui, l'estate l'ho fatta qui e in Lituania. E da metà settembre, sempre di quest'anno, sono tornato giù. Stesso ostello e ho proseguito con questa attività e adesso, fra qualche giorno, ritornerò giù, proseguirò e vediamo un po' di... La mia idea sarebbe quella di trasferirmi lì, trovare una casa lì, trovare un lavoro, perché comunque, tornando a Bomba, è una città che mi sta, non lo so, mi sta coinvolgendo di più, mi sta facendo sentire un pochettino più vivo. Sarà perché è più piccola, sarà perché dietro c'è comunque De André, scuola genovese, che è la musica che a me piace ascoltare, e sarà perché di fondo, secondo me, comunque, nel momento in cui tu vivi in una città, almeno a me è capitato così, rischi un po' di perdere la curiosità nei confronti di quella città, perché pensi tanto è la mia città, ci sono nato e cresciuto, la conosco benissimo. In realtà mi sto accorgendo che paradossalmente adesso so molte più cose della tradizione e della storia di Genova che non di quella di Milano, perché comunque arrivi lì e ti accorgi che sei in un contesto nuovo e hai la curiosità di scoprirlo, torni un po'... Io sono tornato un po' bambino in questo, perché vai lì a vedere le vie, cioè hai proprio lo sguardo un po' più così, più curioso di vedere nuove cose, ti leggi dei libri, chiedi informazioni, ti fai raccontare delle cose. Sto imparando un pochino di dialetto genovese, io non parlo il dialetto milanese, quindi si ribalta un po' tutto. Però l'ostello è gestito da genovesi, più o meno, per esempio, e proprio con loro mi è capitato di parlare anche recentemente con un ragazzo e parlavamo proprio di questo, perché lui mi ha chiesto: ma perché vieni a Genova? Che fa cagare, obiettivamente. E poi mi ha detto: io te lo chiedo perché in realtà io vivo a Genova e Genova mi fa cagare, però ci vivo comunque e continuerò a viverci. E una mia risposta in questo me la sono data. E quindi proprio ci siamo messi a discutere per cercare di capire qual è, perché questa città è bella, cos'è che ti dà. E lui a un certo punto mi ha detto una frase che mi ha colpito, che suonava più o meno: io ho vissuto 15 anni nel centro storico di Genova e sono arrivato ad amare la puzza di piscio che c'era per terra, perché effettivamente, obiettivamente, il centro storico di Genova è sporco, inquinato, c'è un caos incredibile. Peraltro, a livello di popolazione, ormai penso che sia la zona con la più alta concentrazione di immigrazione a Genova, che è un paradosso molto interessante anche questo, perché tu vedi il negozietto che vende vestiti africani dentro a un palazzo del 600 con gli affreschi. Cioè, è un paradosso incredibile. C'è quel tipo di vita che si svolge proprio per strada. che a Milano secondo me manca molto. Cioè quella confusione, venditori ambulanti, anche povertà, cioè anche nel male, perché poi non possiamo neanche far finta di non vedere i problemi, cioè si porta dietro la criminalità, si porta dietro l'inquinamento, eccetera, eccetera. Però non lo so, io sono in una fase della mia vita in cui questa cosa qua comunque mi fa stare bene, mi piace. Mi piace vederla, mi piace cercarla. Quindi sì, è vero che come diceva questo ragazzo qua, Genova è una città che ti tratta male, però non ne puoi fare a meno, come dire. Cioè, evidentemente da qualche parte ti dà anche delle cose che ti fanno stare bene. C'è un posto molto carino che non so peraltro se abbia un nome, perché comunemente lo chiamano Dalla Marchesa. Lì dicono Dalla per dire Al, che è una cosa che mi fa sempre molto ridere. Ed è un piccolo bar che avrà, non so, almeno 30-40 anni alle spalle, gestito da una coppia di anziani, ed è famosissimo perché lì fanno l'asinello, che è un aperitivo tipico genovese fatto con un vino bianco aromatizzato con una serie di erbe. Vino credo che sia fatto nella zona delle Cinque Terre, e lo servono in un piccolo calice con dentro una scorza di limone. Quindi è vino aromatizzato con erbe e zucchero e una scorza di limone, molto dolce. Credo che sia intorno ai 15 gradi, non è particolarmente alcolico, però buonissimo. E lì lo vendono a 1,50 euro al bicchiere, quindi vai lì e te ne bevi 3 e sei ubriaco. E quindi c'è questo bar nel centro storico molto famoso perché fa questo aperitivo, e quindi la prima volta che sono andato lì a Genova, gente di Genova mi ha detto devi assolutamente andare in quel posto a provare l'asinello, perché se no non puoi dire di essere stato a Genova. E tra l'altro ne ho comprato una bottiglia, l'ho portata qui a Banlieue, perché mi piaceva così l'idea, non sarebbe male di replicare una cosa tipica di un'altra città a Milano. Non so se Milano è la città giusta dove proporre un aperitivo di quel tipo lì, perché a Milano comunque va già di più, penso allo spritz, che è molto più grande, ne bevi di più, costa di più. Cioè a Milano quella roba lì non potresti farlo pagare 1,50 euro, sarebbe ridicolo. Però sì, recentemente che mi ha portato questa bottiglia, ne abbiamo bevuto anche qui a Milano un pochettino, ed è piaciuto. Adesso mi è venuto in mente Quattro Amici al Bar, che non si chiama così, di Gino Paoli, però. Perché in realtà quella è... sembra un po' una canzonetta, Gino Paoli. Se pensi al cantautorato non pensi a Gino Paoli, però in realtà quella canzone lì è potentissima. Perché di fatto ti dà uno spaccato di com'è la vita. Cioè, Quattro Amici al Bar, poi che hanno le loro utopie, poi... diminuisce il numero degli amici, aumenta il tasso alcolico di quello che bevono, quindi è molto carina. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero parlando con me del tempo e dei giorni andati. Lì c'è un po' quella dimensione, lui ovviamente la butta sul tempo che passa a suo modo, però se ci vuoi vedere c'è quella componente di sento il bisogno di tornare ad avere una socialità. A un certo punto dice proprio parlare, parlarsi addosso. Forse siamo arrivati in un momento storico in cui, al di là di quest'anno e vabbè, ma in cui la socialità ci manca un po'. Non so perché, però io un po' sento questa cosa qui. E secondo me in questa canzone c'è anche quello. Cioè, ho la chitarra lì, ogni tanto passo nella stanza, la vedo, faccio due così. Se no con amici. Appunto, non spesso, però ci troviamo a volte con un gruppo di amici più o meno stretto a suonare canzoni di De André, ma non solo, De Gregori, cioè ci passa un po' tutto il cantautorato, ma non solo, perché poi facciamo anche gli 883, voglio dire, cioè alla fine siamo tutti qui a dire il cantautorato ci piace molto, ma le canzoni che suono a memoria sono quelle di Max Pezzali, poi, sì, ovviamente. Esatto. E quindi sì, c'è un appuntamento che a noi piace sempre, che è quello della cantata per De André. Non so se hai presente, comunque l'11 gennaio e il 18 febbraio a Milano, tutti gli anni, ormai è un appuntamento fisso che non c'è neanche bisogno più di comunicare, ci si trova in Piazza del Duomo al freddo con chitarre e qualsiasi altro strumento che uno vuole portare, si fanno le canzoni di André per ricordarlo. Ed è un appuntamento che tra l'altro è nato grazie alla radio, perché il giorno che è morto nel 99... Pare che io ovviamente avevo 5 anni, non lo sapevo, però pare che qualcuno su Radio Popolare abbia detto troviamoci in Piazza del Duomo stasera alle 8 e cantiamo le sue canzoni. E da lì è diventato un appuntamento fisso, mai regolamentato, non è mai stato incasellato in niente, il massimo che c'è è la pagina Facebook. E mi ricordo che l'ho scoperto un po' per caso, grazie a Facebook, almeno 5 anni fa. Ci sono andato la prima volta senza chitarra perché non sapevo bene com'era, un po' timido, un po' insicuro, così ho detto vabbè, vado a vedere. Tempo 5 minuti mi sono pentito di non aver portato la chitarra e allora dall'anno dopo ci vado tutti gli anni e ho conosciuto un sacco di ragazzi con cui adesso periodicamente ci troviamo solo per il gusto di suonare due canzoni, ci siamo conosciuti lì. I ragazzi che vivono a Genova li ho conosciuti lì. Che loro pensa venivano su da Genova a Milano solo per la cantata, solo per cantare De André. Infatti poi da lì hanno cominciato a organizzare qualcosa di simile a Genova. Quindi sì, è una rete che anche da quel punto di vista si sta allargando e sì, per adesso le occasioni in cui suono sono quelle lì. Che è un po' tornare indietro. Cioè a me piace molto il contesto di osteria, dopo che hai finito di mangiare, fai due canzoni e si cerca un po' di replicare quella roba lì. Quel tipo di socialità lì in cui ti canti le canzoni che piacciono a te, ti riconosci un po' negli sguardi, nei versi. Molto bello, insomma, molto potente a volte come atmosfera che si crea. Pubblici capita raramente. C'è ancora qualche osteria, qualche posto a Milano che devi un po' conoscere, dove se arrivi lì e c'hai due chitarre può scappare tranquillamente una suonata, mi è capitato l'ultima volta, però eravamo giù a Genova in una trattoria nel centro storico, Vico Mele mi sembra che si chiamasse, e lì avevamo un paio di chitarre, finito il caffè, uno la tira fuori e siamo riusciti a suonare. Dipende un po' chi ti trovi di fronte, quanto casino fai, come sono i gestori del posto. Dipende da quello, perché se il gestore del posto è uno che a cui piace quella roba lì, hai la porta aperta senza problemi. Se no, case private, ovviamente, quello finché si può, sempre bello, sempre possibile. Qui, in effetti, no. C'è una chitarra, quindi... No, l'abbiamo fatto in realtà quest'estate, ma all'aperto. A luglio ci siamo trovati... Era il periodo in cui loro avevano appena messo fuori tutti i tavolini, avevano creato una situazione molto carina, e lì ci siamo trovati una decina di persone, fatto un po' di musica. Però all'interno no, mai. Dovremmo fare, sì, qualcosa... Ma prima o poi capiterà, appena si riesce a riaprire, a potersi assemblare di nuovo, lo faremo. Mi è capitato una volta di aver recuperato una chitarra alle Canarie, che ero lì con un'amica e abbiamo recuperato una chitarra, però l'abbiamo trovata lì, non me l'ero portata da casa. No, perché è un po' scomodo, purtroppo, sennò sì. Cioè, so che infatti c'è molta gente che viaggia e si porta l'ukulele dietro. o il ghitalele che è tipo un ukulele però a sei corde, quindi una chitarra piccola fondamentalmente. Però mi piace meno, preferisco molto di più suonare la chitarra, perché mi posso... A parte che la so suonare meglio, ma poi mi sfogo di più, riesci a... Mi diverto di più, l'ukulele mi sembra sempre di essere un po' costretto di avere più limiti, però sì. No, l'idea di viaggiare con una chitarra assolutamente, se fosse comodo lo farei sempre, però il bello è che comunque se viaggi non è che ci vuole molto a trovare una chitarra, la compri usata in un posto, poi la rivendi. Esatto, tra l'altro questa qui l'avevamo comprata con un amico come chitarra da viaggio, perché infatti è una classica piccola e scrausa. Poi però alla fine non siamo mai riusciti a portarla in nessun viaggio, perché comunque tra una roba e l'altra, poi organizzi il viaggio e dici ma no vabbè, non me la porto. E abbiamo deciso di regalarla a posto, che così possiamo venire qui e usarla e suonarla.